Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora circa, Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, su Twitter, se vi piace cinguettare, @luogoc, oppure scrivete una vecchia mail, insomma se siete un po' più grafomani, la mail a cui rivolgersi è luogocomune.radio. @gmail.com per pareri, suggerimenti o insomma anche critiche, quelle speriamo poche, anche se sono sempre ben accette. Il luogo comune che tratteremo oggi è il servizio militare Ti Forma. È un luogo comune, insomma, che soprattutto per gli radioascoltatori uomini, insomma, ci sono magari passati durante il corso della propria vita sulla famosa cartolina che ti doveva arrivare. Però il taglio che vorrei dare a questo luogo comune è un pochino particolare, ovvero il 16 agosto del 1999 nella caserma dei Parà della Folgore, all'interno della caserma dei Parà della Folgore di Pisa, viene trovato ai piedi dell'alta torretta per far asciugare i paracaduti il cadavere di Emanuele Sceri, giovane avvocato siracusano che da pochi giorni era stato chiamato alla leva. Si parlerà all'inizio di suicidio, di tragico incidente, ma diversi particolari discordanti da questa tesi e i molti interrogativi sulla vicenda hanno fatto emergere nel corso del tempo una verità un pochino più inquietante. Emanuele in realtà non è caduto accidentalmente, ma è stato costretto a salire sulla torretta in questione e poi insomma è caduto giù. L'incidente è dovuto dunque ad atto di nonnismo, oppure una deliberata, quindi uno scherzo finito male, insomma, oppure una diciamo deliberata volontà di uccidere. Ma soprattutto, come può un cadavere rimanere nascosto per 3 giorni all'interno di una caserma senza che nessuno lo sappia? Questi sono degli insomma interrogativi abbastanza inquietanti e abbastanza anche importanti, e ne parliamo in collegamento telefonico con Paolo Orlandelli, attore e regista teatrale che diciamo in passato ha portato in scena diversi spettacoli anche a sfondo insomma civile, su fatti di cronaca. Ricordiamo 4 maggio 98, strage in Vaticano, ricordiamo il Davide contro Golia, cronaca del G8 di Genova, e ne parliamo con lui a questo proposito perché dal 4 al 16 marzo sarà in scena al Teatro dei Documenti, appunto, sulla vicenda di Emanuele Sceri. Buongiorno Orlandelli. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Orlandelli, lei ovviamente ha diciamo un trascorso appunto di autore impegnato, abbiamo visto dal 4 maggio 98 che appunto parla della tragedia che colpì il capo delle guardie svizzere in Vaticano, ai fatti di Genova 2001 che tutti noi sono conosciuti, fino ad approdare a Sceri. Allora, 2 domande in una: perché il teatro civile, cosa vuol dire affrontare appunto del teatro partendo da fatti di cronaca che hanno colpito l'immaginario della nostra società, e in particolar modo poi se ci vuole dire perché proprio Emanuele Sceri? Ma come sempre la prima volta è accidentale. Io collaboravo con un editore che si era interessato, aveva scritto molto anche sul caso della strage delle guardie svizzere, mi ha detto: perché non lo facciamo a teatro? Mi ha messo in mano un volume enorme di documenti che ho studiato e ho pensato che sì, si potesse raccontare questa storia, e da lì ho cominciato a dedicare una parte della mia attività, non faccio solo questo, anche a temi di attualità e di approfondimento, e facendo queste esperienze ho scoperto che effettivamente il teatro ha una vocazione in questo senso. Anzi, se andiamo a vedere nell'antica Grecia, la tragedia era nata proprio per educare i cittadini, per mostrargli quali erano i loro limiti, quale doveva essere il loro comportamento, per insegnare veramente la moralità, cioè i giusti costumi. Poi si è persa questa dimensione perché ovviamente l'intrattenimento ha avuto molto più presa sul pubblico, soprattutto a Roma, dove si facevano i giochi circensi, i giochi venatori, ma effettivamente il teatro dovrebbe svolgere questa funzione, soprattutto in epoche come la nostra, in cui la critica viene un po' oscurata. Penso che una società dovrebbe riflettere su se stessa e puntare una luce, un riflettore su quegli aspetti che non convincono, su questi nodi irrisolti, esprimere anche delle critiche, mettere in discussione se stessa, riflettere se stessa. Il teatro deve proprio riflettere la società e mostrargli i suoi limiti, i suoi difetti, i suoi pregi. E quindi lei è andata un po' a scegliere, diciamo, nel corso della propria attività teatrale, anche di regista, insomma, e di autore, anche, insomma, come dicevo nella presentazione, dei fatti che hanno colpito l'immaginario della nostra, sì, società, dei fatti di cronaca molto, molto pesanti, se Genova, sì, ha riguardato centinaia di migliaia di persone, però sì, proprio, diciamo, proprio scegliere, andare a ripescare la vicenda così, sì, personale, che poi lungo il corso della nostra intervista spero che vedremo che non è così personale, però esatto, insomma, sono d'accordo su questo, sì. Guarda, ti dico, io ti do del tu mi hai dato del lei, ti chiedo scusa, cioè, ma io diamoci del lavorando tu in teatro lo trovo difficilissimo dare il lei, uno fa ore e ore di esercizi ma non ce la fa. Guarda, ti dicevo, ho cominciato con tre lavori appunto di Fabio Croce sul problema dell'omosessualità vissuta in maniera problematica anche per via dell'atteggiamento del Vaticano. Poi sono passato a Genova perché cadeva il decennale nel 2011 e poi su Sceri perché mi è capitato tra le mani il libro pubblicato da Caos Edizioni e curato dai genitori di Emanuele, cioè Isabella Guarino e Corrado Sceri, che non c'è più da 2 anni. Ricordavo molto bene questa storia perché lui era quasi un mio coetaneo e mi aveva colpito prima ancora di iniziare questa attività teatrale dedicata all'approfondimento, perché era evidentemente molto faticosa da accettare il fatto che questo ragazzo fosse rimasto per 3 giorni a decomporsi all'interno di una caserma, e perché poi non si fosse arrivati in nome dei responsabili. Parliamo di soldati in servizio di leva all'interno di una caserma che contava 200-300 unità, quindi possibile che non si risalisse a questi nominativi, a questi responsabili, che poi avessero avuto un trattamento, magari, che non so, delle attenuanti, oppure è stato un incidente, ma qui il grosso problema non si è arrivati proprio ai nomi dei responsabili. E qui vado a toccare 2 punti che tu hai accennato in presentazione che vorrei approfondire, proprio nell'interesse degli ascoltatori. Sì. Allora, Emanuele è stato costretto a salire sulla scala di prosciugamento dei paracadute all'esterno della gabbia di protezione, mentre alcuni erano all'interno e gli hanno pestato le mani. Cioè, le perizie rivelano che lui ha avuto delle lesioni sulle dita con a stampo, proprio con l'impronta di scarponi, quindi lui è stato proprio fatto cadere, è caduto e si è rotto la schiena, non è morto. Si sono impauriti, probabilmente, stando anche a molte dichiarazioni anonime di soldati che si trovavano in caserma, non sapendo cosa fare, pare che abbiano chiesto indicazione ai superiori, i quali gli avrebbero detto lasciatelo lì, sembrerà un incidente. Quindi capisci perché non sono venuti fuori i nomi di questi, perché se questi venissero fuori direbbero vabbè, ma a me di fare così me l'ha detto il generale o l'ufficiale tal dei tali. Immagina tu che cosa potrebbe accadere se venisse fuori una situazione di questo genere. Quindi omertà assoluta, non si è riusciti a capire chi sia stato a lasciarlo lì. Poi veramente uno dice poi la complicità del corpo degli ufficiali, per 3 giorni non è stato cercato, cioè Emanuele era tornato dalla libera uscita la sera alle 22:20 con altri commilitoni e non si è presentato in camerata, e i suoi commilitoni hanno detto ma guardate che lui è rientrato in caserma. Beh, per 3 giorni nessuno si è dato la pena di cercarlo, perché evidentemente sapevano benissimo dove stava. e che fine dovesse fare. Allora, e infatti l'hanno trovato quando puzzava, cioè quando sicuramente era già morto. Era già morto. Allora mettiamo un po' di ordine cronologico. Emanuele, in Giovane Italia arriva la cartolina che lo obbliga, sì, a fare la visita di leva, e durante questa visita, siccome è di sana robusta costituzione, opta, insomma, dice che non gli dispiacerebbe appunto essere incluso, sì, nel corpo dei paracadutisti. Teniamo presente che allora appunto aveva 18 anni. 18 anni, certo, e i famosi 3 giorni, no? Sì, quando poi lui è andato a fare il militare ne aveva 26, una laurea in giurisprudenza che già praticava lui, quindi comunque probabilmente era anche una persona diversa, insomma. Era un'altra persona, sì, questo anche a giudizio dei genitori, dicono probabilmente a 26 anni, avviatissimo nella sua carriera, apprezzatissimo, laureato col massimo dei voti, probabilmente non aveva più nulla, capito, da cercare in un'esperienza come quella della Folgore. Però a quel tempo, però, ricordiamo che rispetto invece ad adesso, dopo la riforma del 2005, a quel tempo appunto la pre-riforma la leva era obbligatoria. Quindi quando ti arrivava la cartolina dovevi, insomma, sì, andare, volente o nolente. Potevi scegliere, per esempio, se volevi andare nei parà, lo sceglievi tu, non è che ti chiamavano nei parà. Certo. Lui ha scelto questo, sì. E quindi arriva alla... lui fa il Caras-Candicci, dove già si distingue per questa sua ansia di giustizia. Quando assiste a degli atti di nonnismo, lui si erge a paladino della giustizia e dice: voi questo non lo potete fare, voi ne vedete le conseguenze, io vi denuncio, io vi faccio passare i guai, vi faccio la causa penale, e si fa la fama da avvocato. E quindi praticamente... Fama che rischia di precederlo, come molto probabilmente lo avrà preceduto. Così è successo. Nel momento in cui questa fama da avvocato, che tradotto vuol dire rompiscatole, l'ha preceduto nel momento in cui si presenta alla Gamerra di Pisa, ovvero alla... Il primo giorno praticamente... Lui esce, visita la... vabbè, ovviamente riceve, no, le coperte, queste cose, si sistema, la sua branda, poi va in libera uscita, dopo la cena, gli dice, presto, le 6, così. Chiama i genitori, chiamava tutti i giorni, c'erano i cellulari, e rientra con questo suo commilitone, che poi afferma... Lui afferma, questo commilitone, che... Emanuele vuole rimanere solo per fare un'altra telefonata che non compare sui tabulati, lui non fa nessuna telefonata, viene probabilmente, come dichiarano molti anonimi, prelevato da una ronda, dal 3 nonni, che lo prendono a male parole, probabilmente lo picchiano e lo obbligano a risalire sulla gabbia di protezione di questa scala alta 10 metri. Che, per dare un'immagine ai nostri radioascoltatori, è un pochino quella che si vede nelle gru, no? Quella che si vede per salire sopra le gru, che praticamente ha degli anelli, che però la persona, la persona dovrebbe andare dentro gli anelli, ovviamente, sì, mentre lui hanno fatto salire fuori, quindi la parte esterna. Esatto, la prova richiede di risalire questa scala esternamente solo con l'uso delle braccia. Le scarpe venivano legate fra di loro per non poterle usare nella salita. Questa era la prova della torre, che è una cosa che lì si faceva. Purtroppo poi anche il generale della caserma, il generale della Folgore, hanno cercato di dire inizialmente che lui si era arrampicato per cercare il campo del telefonino o per vedere le ragazze dei villini vicini, ma non c'è, perché uno sale sull'esterno. Hanno cercato di avanzare l'ipotesi del suicidio, ma lui era una persona, insomma, estremamente socievole, estremamente risolta. Io, documentandomi per preparare appunto la puntata, ho visto che proprio all'inizio, nelle primissime fasi dell'indagine, veniva chiesto ai genitori, al fratello, insomma, se Emanuele facesse uso di psicofarmaci, sì, fosse depresso. Ma poi tu immagina se uno che si vuole uccidere si lega i lacci delle scarpe e si butta di schiena. Evidentemente no. Il grosso, veramente grumo, inaccettabile di disumanità e di viltà e che lui, se fosse stato soccorso, si sarebbe salvato, cioè probabilmente sarebbe finito in carrozzella perché aveva la frattura della colonna, ma lui è morto dopo un'agonia di molte ore, cioè lo potevano salvare veramente, perché lui non aveva delle ferite sanguinanti importanti, aveva una contusione alla testa e qualcosa così, delle scoriazioni, in sostanza aveva la schiena spezzata. Quindi lui poteva essere salvato, invece è stato scelto di lasciarlo lì. Agonizzante tutta la notte. No, per 3 giorni, figurati un po'. Lui è morto probabilmente in un lasso di tempo che va dalle 5 alle 8 ore. Sì, sì, è per questo ho detto tutta la notte, perché alla fine molto probabilmente è morto all'alba. Il tempo che ha impiegato, sì, sì, sì. Però se fossero intervenuti li avrebbero salvato, certamente le avrebbero salvato la vita. Ecco, quindi queste sono quelle cose che noi non vogliamo accettare, così come non vogliamo accettare che i responsabili non rispondano di queste azioni. Paolo, senti, tu fisicamente quando hai scritto, ci dai un po' di limiti cronologici di quando ti sei appassionato alla vicenda e quando hai proprio cominciato a scriverne sopra, a documentarti, e poi ti devo fare una domanda, appunto, se hai conosciuto sì. I genitori di Emanuele. Sì, sì, guarda, allora io mi capita sempre di leggere delle cose che mi piacciono e ne faccio l'adattamento teatrale, cioè è una abitudine che ho, ma di qualunque libro, anche dalla letteratura, è una cosa che mi piace fare, e l'ho letto nel 2010 e l'ho fatto, il copione l'ho scritto allora, poi diciamo frequentando questo teatro di documenti di Roma, che ha una vocazione per l'attualità e per la documentazione appunto della vita dei nostri giorni, ho parlato del progetto e diciamo quest'anno mi hanno detto che volevano avallarlo, insomma sostenerlo, ospitandolo e coproducendolo in parte, perché poi si mettono insieme tante realtà per far sì che uno spettacolo possa andare in scena, perché il periodo è molto difficile. Senti, quindi, la documentazione si è basata appunto sul libro e insomma esatto. Fondamentalmente poi avrei fatto le ricerche in internet eccetera, c'è stata una documentazione anche di tipo verbale con qualcuno? Beh no, non proprio, però io come ti stavo dicendo, per passare al discorso del genitore di Emanuele, quando si è concretizzata l'ipotesi di fare lo spettacolo ho detto sentiamo cosa ne pensano, mandiamogli il copione in lettura, facciamoci approvare questo progetto, e così tramite la Caos Edizioni mi sono messo in contatto con Isabella Guarino, che ha approvato il copione, ha avallato il progetto e verrà a vedere lo spettacolo domenica 9 marzo insieme all'altro figlio Francesco. E ricordiamo, Isabella Guarino è la mamma di Emanuele Scher, il papà è scomparso un paio di anni fa, okay. E ci ha anche chiesto insomma di farlo ad agosto a Siracusa e a Noto, e che si è anche adoperata per fornirci dei patrocini a cui noi teniamo molto, appunto il comune di Noto, di cui sono originari, e il comune e la provincia di Siracusa. Tu Paolo, che persona hai trovato? Hai avuto modo di parlare di... Ci ho parlato solo per telefono, è sicuramente una donna provata, però molto lucida e... Non ti so dire cosa accada veramente a livello profondo quando si perde un figlio in queste circostanze, però l'ho sentita molto aperta e so che loro frequentano gli amici di Emanuele e si giovano molto, diciamo, del calore, della partecipazione, della solidarietà della loro comunità. E una comunità alla quale hanno dato accesso anche a me, a questa compagnia di 14 straordinari attori giovani che realizzano lo spettacolo, perché non dimentichiamo che lo spettacolo lo fanno gli attori, che sono dei ragazzi molto giovani. Ho scelto dei ragazzi giovani perché esprimono un'energia stupenda. Loro conoscevano la storia di Emanuele? Beh no, questi sono proprio sui 24-25 anni, no, però ecco, la immaginavo svolgersi in un clima appunto di giovani in età della leva, anche se adesso non c'è più, e quindi... Loro non sanno però che, magari glielo potresti accennare quando li vedi, soprattutto ai maschi, che una... una parte del fatto, insieme a tanti altri calcoli di tipo economico, eccetera, eccetera, del fatto che in Italia si sia levata la leva è una conseguenza, magari, non, ripeto, non diretta ovviamente, però di un meccanismo di discussione che si mise in moto, io me lo ricordo, ero un ragazzino veramente all'epoca, però io me lo ricordo dopo appunto l'episodio di Emanuele Scerri, dopo l'atto di nonnismo, si fecero, a parte le indagini dei tribunali, mi pare che ci furono aperte, correggimi se sbaglio, tre inchieste parallele, esatto. Una della magistratura militare, no? Poi una della procura ordinaria di Pisa e una amministrativa interna alla caserma. E che poi possiamo insomma già dirlo, per chi si vorrà documentare su internet troverà quello che è successo, cioè di fatto c'è stata un'impossibilità materiale a scoprire gli autori. Esatto. Quindi sì, ancora, sì. Ancora diciamo rimane uno dei grandi misteri, insomma, d'Italia, almeno che, cioè misteri, nel senso che quando però si chiarisce la dinamica, manca alla fine solo un nome, perché esatto, la dinamica no, in realtà. La dinamica è stata accertata ufficialmente, cioè è imputabile all'azione di terzi questa morte di Emanuele, che però rimangono ignoti. Quindi la dinamica è stata ricostruita in maniera assolutamente puntuale e inconfutabile, quindi si sa che lui è morto perché è stato fatto arrampicare e poi cadere lì e abbandonato, perché se fosse caduto e fosse stato soccorso non sarebbe morto. Quello che non si sa è il nome di questi responsabili. E appunto, quello, come stavo dicendo, dopo la morte di Emanuele Scerri in Italia ci fu si aprì un grande dibattito su, a parte certi metodi di, come dire, di educazione del futuro soldato, grande scalpore, tra l'altro suscitò la presenza, non so se lo citi nel tuo spettacolo, di uno zibaldone che come uscì no? fuori è del ridicato, generale del, sì, c'è dell'allora, un capitolo. Dell'allora Celentano, dell'allora generale dei Parà, il generale sì. Celentano, che cos'è questo zibaldone? In poche parole sono circa un 120 pagine scritte di suo pugno che contenevano, assieme a materiale scherzoso, a volte blasfemo, a volte diciamo goliardico in senso spinto, anche delle citazioni evangeliche o dei consigli su come appunto forgiare il futuro soldato d'Italia, insomma. E destò molto, molto scalpore, perché insomma un generale, quindi una persona sicuramente molto importante all'interno della nostra struttura militare, si abbandonò donava a considerazioni, a parte era previsto proprio insomma nella parte di questa educazione alcuni scherzi, tra cui mi sono andato a documentare perché non me lo ricordavo ovviamente, però c'era il gioco della bicicletta che consisteva nell'alcol sprizzato sui piedi della spina, cioè del povero malcapitato, e poi dato alle fiamme in modo tale che facesse una specie di balletto. Poi c'erano considerazioni sui meridionali in generale. Sì. Insomma, tutta una serie di cose un po' becere, diciamo, no? Come no, c'è anche un riepilogo degli atti di nonnismo, c'è proprio un vero e proprio manuale di nonnismo lì. E appunto, insomma, nacque la domanda quanto poi i suoi allievi hanno tratto spunto da questo zibaldone. Sì. Ma senti Paolo, io ti voglio chiedere però a questo punto una domanda personale, ma tu hai fatto il militare? Io ho fatto il servizio civile, cioè dovevo farlo, nel senso che io rientravo per età in quelli che dovevano farlo, ma ho fatto il servizio civile a Roma in una comunità per il reinserimento degli ex detenuti che si chiama Carcere e Comunità, ho fatto 18 mesi, un'esperienza molto interessante. 18 mesi, perché allora il servizio civile, chi optava per il servizio civile durava di sì, più. Sì, c'è stato un periodo in cui poi è durato 18 mesi, sì. Ma io poi avevo lì, tra l'altro, stretto rapporti, insomma, con alcune persone che ho voluto continuare a seguire. Diciamo che ho sentito come più utile per me e per gli altri quel tipo di servizio. Però, sai, per andare al tema della tua trasmissione, il servizio militare forma, questo sì, nel senso che soprattutto tempo fa il fatto di spostarsi di città, di avere ecco una disciplina, questo era molto formativo. Poi ci sono degli aspetti che sono deteriori, come appunto questo del nonnismo, che purtroppo, come vediamo, non accenna a diminuire. Se tieni presente il caso di Parolisi, che lui ha ucciso la moglie, ma è indagato insieme a altri 11 suoi colleghi della caserma di Ascoli per abusi su soldatesse, perché adesso con la riforma c'è stato effettivamente che diventa un servizio professionistico, però c'è stato anche l'ingresso delle donne, e adesso immagina tu il nonnismo che cosa è diventato in queste circostanze. Certo, anche uno sfondo appunto delle differenze di sessi, purtroppo, insomma. Purtroppo dentro questi luoghi chiusi, a maggior ragione se si indossano una divisa, si portano le armi, credo che si crei una grande confusione, al punto che queste persone che devono far rispettare la legge si identificano con la legge e pensano di essere loro la legge e di fare quello che vogliono. Ma senti Paolo, se io ti dovessi chiedere alla fine, visto che il tempo purtroppo è tiranno, qual è il senso di questo spettacolo? Quale messaggio, visto che tu hai parlato di impegno civile e addirittura all'inizio della nostra chiacchierata hai parlato di intento moralizzatore, in senso non ovviamente meramente pedagogico, ma moralizzatore nel senso che coinvolge e invita alla discussione tutta la società, tutte le persone che guarderanno il tuo spettacolo. Alla fine appunto, quale insegnamento, quale diciamo morale, nel senso che dicevi prima, si può trarre dal tuo spettacolo quando ci si alza fisicamente dalla sedia? Sì. Noi facciamo questo spettacolo per dire che non accettiamo casi di questo genere e non li dimentichiamo. Può passare un secolo, ma i nodi che restano irrisolti per noi rimangono ancora importanti e tutti da sondare e da esplorare. E soprattutto, ecco, non siamo disposti ad accettare delle deroghe al principio che la legge è uguale per tutti e che la verità si deve affermare a qualunque costo, senza coperture di responsabilità a nessun livello, e soprattutto che un esercito e uno Stato dimostrano la loro forza quando sanno affrontare anche questi momenti difficili e ammettere delle responsabilità che, nascondendole, creano ancora più fango e disonore su quelle istituzioni. Tu fino adesso hai trovato della energia positiva attorno a te, dei riscontri positivi, delle persone coinvolte, ovviamente non parlo solo della mamma, che è quello è ovvio, anche diciamo a livello più ampio, che feedback ci hai avuto? Ma come dicevi tu, a un certo punto questa storia ci riguarda tutti. Ci sono moltissimi gruppi esistenti, Amici di Emanuele, Giustizia per Lele, è una cosa molto sentita, una cosa che non va giù questa. E ovviamente c'è anche chi si fa venire un po' i brividi e chi si fa degli scrupoli, ma diciamo che la forza che esprime proprio anche la personalità di Emanuele Scieri, perché noi che stiamo vivendo questa esperienza, la sentiamo, la sua personalità, è un'energia assolutamente positiva, costruttiva, di speranza e di fiducia, quindi noi diciamo questo è il nostro carburante. Paolo, senti, siamo arrivati dunque alla conclusione, ricordiamo dal 4 al 16 marzo, Teatro dei Documenti, qui a Roma, per la regia di Paolo Orlandelli, appunto, Emanuele Scieri, diciamo pista teatrale, appunto, sul dramma di Emanuele, vittima del servizio di leva, visto che ancora in occasione del debutto, e visto che appunto ho la fortuna di parlare con un uomo di teatro, ma alle persone che devono debuttare in teatro, ma che cosa si augura? In bocca al lupo. Ma non siete scaramantici, non siete tutti scaramantici. Il luogo comune vuole che la gente di spettacolo sia molto scaramantica. Sì, sì, perciò, beh, io perché sono di una, già comincio ad avere un'età, dico in bocca al lupo, cioè i giovani dicono delle parolacce. Paolo, ti ringrazio per questa nostra chiacchierata, veramente. Grazie a te, Valentino, dell'opportunità e del risalto che dai al nostro lavoro. Grazie mille. Salutiamo dunque Paolo Orlandelli e ricordiamo quindi dal 4 al 16 marzo Teatro di Documenti a Roma, la pista teatrale sulla storia di Emanuele Scieri. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori di visitare il sito www.radiocittaaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. E ricordiamo di usare questo benedetto Facebook, Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta 88.9, non vi potete sbagliare, quindi diventiamo amici almeno su Facebook. Vi piace cinguettare, c'è Twitter, @luogoc, oppure se siete rimasti alla mail, sempre una bella mail a luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 13.30, quindi ricordatevi questo nuovo orario, venerdì alle ore 13.30, sempre gli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca, un buon venerdì e un buon weekend. Ciao!